questa volta dirò qualche cosa a favore dei politici. Sì. Le critiche che subiamo sono spesso fondate su cattive informazioni. Mm. Si dà per scontato che il sindaco sappia benissimo perché è stata chiusa quella strada, perché è stato sospeso quel servizio. Spesso e volentieri il sindaco non sa nulla perché la procedura non prevede che lui sia. E invece questo è un bel mezzo di informazione. E sono i cittadini a dirgli: guarda, che hanno sospeso, come è capitato a me qualche giorno fa, la navetta che gira per il cimitero di Bari. Io non lo sapevo che avevano sospeso. E l'ha saputo tramite questa segnalazione. Però, sindaco, lei è finito nel ciclone delle polemiche per un'altra vicenda. Una foto che lei ha pubblicato nella sua pagina di tre netturbini di Bari che parlottavano con la didascalia. Qualcuno ha detto la gogna ai fannulloni, cioè che lei invitava a individuare chi non lavorava, no? Invece... Guardi, io sono un magistrato nella mia sì. vita normale e quindi ho visto fare agli impiegati pubblici cose che nessun impiegato di azienda privata avrebbe mai fatto. Io ho visto impiegati pubblici rischiare la vita, dare informazioni, collaborare alle indagini di mafia, impegnarsi perché il principio di legalità fosse sempre rispettato. Certo, ho anche arrestato qualche pubblico ufficiale che non si comportava bene, però in tutta sincerità non sono certo, diciamo, una persona che borbotta contro il pubblico impiego. E perché allora è capitato messo... solo, molto semplicemente, che probabilmente in quei giorni non c'erano molte notizie. Adesso sto facendo un po' di polemica col sistema della comunicazione. Ah, e allora e questa fotografia e il titolo anche di Repubblica di Bari hanno avuto un grande successo. Però ecco, non inviterei tutti, soprattutto coloro che si sono arrabbiati con me, sì. a non sottovalutare quel che è accaduto, perché un cittadino che si chiama Oreste, il cognome lasciamolo perdere, sì. mi manda la fotografia e io mi limito pubblica. A scrivere sotto se qualcuno vuole giustificare, spiegare, tutto sommato una fotografia che non provava nulla, può farlo sulla mia pagina Facebook. No, perché la CGL e la CGL per esempio sarebbe a mandare fotografie. No, certo, però la CGL ha detto la caccia alle streghe, la CGL la funzione pubblica. La CGL ha un marketing elettorale preciso, pensa che la difesa dell'esistente sia l'unico mezzo per garantire la sua esistenza e il concetto di sinistra. Sì. Io mi sento un uomo di sinistra, lo sono sempre stato. Prima di fare il magistrato ho fatto politica da ragazzo nel Partito Comunista, quindi non mi vergogno affatto di dirlo, anzi ne sono molto orgoglioso, però non ho l'impressione che questo modello, ecco, garantisca un progetto per il futuro, un progetto per però l'Italia. Guardi, lei dice la CGL, ma guardi, le ha letti anche i titoli nazionali, non so, La Stampa, la gogna del sindaco Michele Serra su Repubblica, la gogna dei dipendenti. Di comunicazione, cioè nel senso non, non è una gogna, ecco, lei dice non voleva metterla. Io non ho chiesto ai cittadini di trasformarsi in delatori. Ho fatto quello che normalmente i sindaci fanno, ma l'ho fatto su Facebook. È normale che se un netturbino non lavora a sufficienza, i cittadini del quartiere vadano dal sindaco e gli dicono: guarda che quello lì non fa niente. Dopodiché io cerco di intervenire, di sollecitarlo e sono arrivate, bisogna anche intervenire disciplinarmente. Sono arrivate purtroppo anche delle parolacce, questo, per fortuna è avvenuto su Facebook, quindi con un effetto enorme, molto più grande di quello che sarebbe stato normalmente con un rapporto diretto. Ma lei, sindaco, ha raccontato anche che le sono arrivate delle parolacce, degli insulti. Vabbè, ma questo è normale. Ma tipo? Adesso non vorrei farmi della cattiva pubblicità. No, vabbè, ma so che lei è una persona che non ha problemi. Per esempio, devo dire, non sono tantissime, ma oggi mi ha colpito molto un netturbino di Roma, di 20 anni. Io gli ho risposto proprio stamattina. Se i telespettatori vanno i radioascoltatori vanno sulla mia pagina Facebook, possono trovare l'ultimo messaggio che è una risposta a questo netturbino. Che gli ha che gli era dice? Furioso con me, mi diceva che io mi dovevo vergognare, che io avevo esposto lui che guadagna solo 600 euro al mese ad una gogna mediatica. Ora, io gli ho spiegato che mi sono limitato a rispondere a un cittadino e a pubblicare la fotografia che questo cittadino mi aveva mandato e che non avevo chiesto alcuna delazione, ma gli ho anche detto che la cultura del lavoro, del sacrificio, che era, come posso dire, uno degli elementi fondamentali del sindacato italiano. La Fiat di Torino fu difesa dagli operai di Torino dal tentativo che i nazisti fecero di distruggere gli impianti. C'era contemporaneamente una lotta dura nei confronti di un padrone che sfruttava il lavoro degli operai, ma anche una grande consapevolezza che l'efficienza della fabbrica era la prima tutela del lavoro stesso e degli operai. Io invece adesso ho l'impressione che di fronte alla precarizzazione del lavoro qualcuno pensi che siccome viene pagato poco può non far nulla. Questo alimenta questo un circuito devastante di degrado delle nostre città, del nostro paese, diminuisce la nostra capacità competitiva e dà la stura alla destra vera, cioè quella che vuole distruggere le conquiste sindacali del movimento operaio del secolo scorso, dalla stura per poter poi fare una polemica, una battaglia seria e difficile da contrastare. Intanto, sindaco, nel salutarla e ringraziarla, che devo andare alla pubblicità, questi treni e turbini invece non si sono fatti vivi. Assolutamente no, quindi... anche se devo dire, l'istruttoria che poi è ordinaria che noi abbiamo fatto non ha dato risultati negativi, cioè pare per l'orario della fotografia che fossero praticamente alla fine del turno, mancavano 5 minuti alla fine del turno ed erano a 50 metri dal deposito. Probabilmente avevano finito prima e si sono limitati, come posso dire, a fare due chiacchiere prima di smontare. Perché una foto è una foto, non si sa che hanno fatto 3 secondi dopo. Però, magari spazzavano. L'effetto mediatico di quel che è accaduto è veramente straordinario ed è anche questo da studiare. Senta, tra l'altro noi sindaco, intanto grazie, ma tra poco parleremo della lista Falciani, quella dei presunti evasori fiscali. Lei si è pronunciato anche su questo, no? Cioè quelli che hanno i conti in Svizzera. Chi ha i conti in Svizzera in questa lista? Lei che è magistrato. Per lei cos'è? Già colpevole? Guardi, io mi permetto di dire, più che perché questo è sotto accertamento, però chi, avendo avuto successo nella vita, e non avendo nessun bisogno insoddisfatto, non paga le tasse, non dà il suo contributo alla comunità alla quale probabilmente poi deve molto, corrisponde modernamente a un traditore della patria, cioè una di quelle persone che non è consapevole che nessuna ricchezza individuale è totalmente attribuibile al merito delle singole persone, ma probabilmente al contesto, all'immagine generale di un paese. Se un grande designer, un cantante, un artista, uno sportivo, rappresentando l'Italia nel suo complesso in una storia antichissima, ottiene successo, deve essere consapevole che nei confronti dell'Italia ha un debito. Certo, è necessario per esempio che noi utilizziamo bene il denaro dei contribuenti e in particolare facciamo funzionare bene i servizi e le aziende municipalizzate, perché se non lo facciamo diamo un'ulteriore giustificazione a chi pensa che pagare le tasse sia in realtà un optional, un'attività volontaria, non una cosa obbligatoria. La ringrazio sindaco, buona giornata ovviamente. Grazie al sindaco di Bari Michele Emiliano del Partito Democratico. E allora, traditore della patria, lui dice chi evade le tasse. Cosa ne pensate di chi sta in questa lista Falciani? Questa lista di persone che hanno i conti in Svizzera. Sono secondo voi già colpevoli? Questo è il tema del nostro sondaggio. Ne parleremo tra poco. Io sono contento perché lo teniamo come delle perle che ogni tanto vi doniamo. C'è il nostro Oscar Giannino che sarà con noi tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, 8:33 minuti, parliamo nel nostro sondaggio della cosiddetta lista Falciani. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ci sono anche quasi 7.000 nostri connazionali che sono in questa lista. Ora, Falciani chi era? Chi è? Hervé Falciani è un dipendente ex dell'HSBC, un colosso bancario in Svizzera, che sicuramente con una mossa illegale, sicuramente tradendo la fiducia della propria azienda, ha trafugato una serie di correntisti dell'HSBC e poi che ha fatto? Li ha rivenduti in giro per il mondo. E ovviamente chi ha soldi in Svizzera, ora tutte le procure di mezza Europa indagano anche 120 procure in Italia e sono usciti i primi nomi. Noi vi chiediamo, secondo voi, chi sta in questa lista? È da considerare già un colpevole perché ha i soldi all'estero? E devo dire, Oscar Giannino, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, l'ho detto, lo teniamo come delle perle rare che ogni tanto dispensiamo. Il 78% dei nostri ascoltatori dice sì. Sono colpevoli. Ti voglio fare sentire, Oscar Giannino, e al nostro ospite, altro che saluto, ci parla da Bruxelles, l'eurodeputato dell'Italia dei Valori, Luigi De Magistris. Buongiorno, De Magistris. Buongiorno. Voglio farvi ascoltare quello che un minuto fa il sindaco di Bari, Emiliano, che avevamo ospite per la vicenda Facebook Fannulloni, ci ha detto, perché gli ho fatto una domanda finale su questo. Chi sono quelli che sono in lista? Chi, avendo avuto successo nella vita, e non avendo nessun bisogno insoddisfatto, non paga le tasse, non dà il suo contributo alla comunità, alla quale probabilmente poi deve molto, sì, corrisponde modernamente a un traditore della patria. Eccolo qua. Il era di Oscar Giannino che commentava. Oscar, traditore della patria. Allora, sono traditori quelli che sono in questa lista o è traditore Falciani? Sicuramente Falciani ha tradito, diciamo, la fiducia dell'azienda. Sicuramente, poverino. No, Falciani sicuramente ha tradito la fiducia della sua azienda, certo, questo sì. Punto numero uno. E gli stati quindi che si servono pagando di questi dipendenti illeciti che stanno in paesi in cui c'è la tutela della riservatezza bancaria, cosa sono? Se si allenano con dei criminali, cosa sono questi stati? Sono dei criminogeni. Stato criminogeno rapinatore insieme a criminale di professione. Questa è la bella somma di cui, con queste belle domande da questa radio di Confindustria, è ovvio che la gente quando vede il sangue scorrere si prende lì le tricotese e dice che bello, e adesso immagino che De Magistris mi farà la lezione dicendo che sto difendendo gli evasori e che è scandaloso che la radio di Confindustria difenda gli evasori. No, ma la gente che va nei paesi dove esiste lo scudo della tutela della riservatezza dei dati bancari, la Svizzera, l'Austria dove è costituzionalmente tutelato, quei paesi hanno costituito l'unico scudo negli anni dell'autoritarismo nero-rosso, hanno salvato gli ebrei dai nazisti, quelle sono isole di civiltà, hanno difeso i propri cittadini dagli imperi, dagli Asburgo, prima, dopo, durante... Quindi io dico, viva la Svizzera, il segreto bancario, i criminali sono gli stati alleati con i criminali. E i criminali, Oscar Giannino, cioè chi dovrebbe andare in galera tra tutti questi? Sicuramente uno, Falciani. Sicuramente Falciani, però anche i Befera di Stato, anche i capi delle agenzie delle entrate. Ah, ecco, De Magistris ha visto qui la posizione di Oscar Giannino. Commettono reati, per questo non io non li sto, però commettono reati insieme ad altri che hanno commesso reati. Fino a 3 anni fa i Falciani erano perseguiti da in Germania, in Francia, poi improvvisamente i servizi segreti di quegli stati, siccome hanno bisogno di entrate con la grande crisi, hanno iniziato a dargli soldi, prima li mandavano in galera. Allora, De Magistris, Falciani cos'è? Un farabutto che ha trafugato in maniera illegale? Beh, questo sicuramente, insomma, non ha fatto un qualcosa che la propria azienda, che la sua azienda poteva considerare un comportamento premiante, però lei che ne pensa? Ci sono due aspetti, non c'è dubbio che la condotta di questo impiegato infedele corrisponde a una condotta criminosa. Detto questo, adesso però ci troviamo in un'altra fase, perché adesso ci troviamo di fronte al fatto che autorità giudiziarie, innanzitutto la procura di Nizza francese e poi altre autorità giudiziarie come quelle italiane, hanno colto in quel materiale ulteriori elementi di reato e che quindi evidentemente quel segreto bancario andava a tutelare interessi criminali, innanzitutto l'evasione fiscale, evidente, la solita, ma probabilmente non solo. E in questa vicenda così grave stanno venendo fuori due nodi importanti: uno, l'assoluta assurdità dello scudo e l'illegalità dello scudo fiscale italiano, che ha consentito di ripulire con un scudo legale condotte criminose, e dall'altro lato che ancora una volta ci troviamo di fronte al fatto che sono sempre le stesse persone, che tra l'altro hanno già commesso fatti reato nel passato, che si arricchiscono con il paravento del segreto bancario. Quindi se è vero che nel passato queste nazioni hanno sicuramente avuto dei pregi nel difendere dei perseguitati politici, come ricordava Giannino, sono invece assolutamente contrario al fatto che si tuteli il segreto bancario in questo modo, perché è un paravento per tutelare l'evasione fiscale, molto spesso il riciclaggio del denaro sporco, denari di corruzione, traffico d'armi e nefandezze. Però De Magistris, tipo, le chiedo, si metta nei panni di uno come Claudio Panatta, che oggi è sui giornali, è il fratello minore, anche, ripeto, meno vincitore sui campi da tennis del celebre Adriano Panatta, ne cito uno, e si trova oggi e dice: ma io avrò avuto 5-10 mila euro su quel conto. Cioè si trova già sui giornali, come ieri Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli, oggi Mario Giordano scrive: i miti della sinistra, i Sandrelli, le Sandrelli col portafogli a destra in Svizzera. Cioè il dato di fatto che comunque De Magistris, parliamoci chiaro, uno sputtanamento preventivo già c'è, questo, su questo possiamo concordare, magari sono soldi tutti, tutti regolari. Ma, che... guarda, ma infatti bisogna fare un distinguo. Io ad esempio sono per l'idea che tutte le persone dovrebbero pubblicamente dichiarare la propria situazione economico-finanziaria, ecco perché non mi piace proprio l'idea del segreto bancario in quanto tale. Se poi in questa vicenda c'è qualche poveretto, ma francamente mi sembra strano che uno porta 3-4 mila euro in Svizzera, la gran parte dei casi che sono usciti sui giornali parliamo di somme ben differenti. Poi bisogna fare un distinguo, come sempre, poi qua scatta la deontologia professionale di chi pubblica queste notizie. È chiaro, la gogna in quanto tale, mettere tutti sullo stesso piano, chiunque ha un conto corrente, mi sembra sbagliato, ma la vicenda in sé dimostra ancora una volta come ci sia una fuga dei capitali, in questo caso verso la Svizzera, ma sappiamo anche verso altri paesi offshore, dove le solite persone, diciamo quel 10% che in Italia ha il 45% della ricchezza del prodotto interno lordo, porta il denaro all'estero, magari evadendo le tasse, e poi ci sono i soliti fessi, come disse una volta Berlusconi, e chi paga le tasse sostanzialmente è un deficiente, che pagano le tasse e mantengono il paese. Allora io, Oscar, qui come sai si scatenano anche i messaggi, no? Molti anche che vogliono un tuo parere. Intanto ti chiederò la questione sullo scudo fiscale, no? De Magistris dice la dimostrazione che lo scudo fiscale è stata una cosa illegittima, e poi vuoi rispondere a questo ascoltatore che dice che tu difendi a priori sempre i ricchi, no? La mano dura con gli ultimi, e invece no, i ricchi... Ma io difendo i ricchi, io difendo chi si avvale della concorrenza fiscale tra ordinamenti, che è l'unica cosa che resta di fronte all'esosità dei governi che di fronte alla crisi spendono ancora di più e vogliono ulteriormente accrescere il prelievo. Difendo la concorrenza fiscale ordinamenti perché è l'unica cosa che resta che spinge un pochino verso il basso attraverso la concorrenza il prelievo fiscale. Dire invece che chiunque si avvale delle tutele di altri ordinamenti è un evasore fiscale, Magistris se lo rispetto, dice che lui è, perché tutti debbano dichiarare allo Stato conto economico, patrimonio, tutto. Questa è una cosa per la quale, una visione per la quale il diritto dello Stato viene prima del mio. Per me il mio diritto naturale individuale viene prima di quello dello Stato, è il fondamento della civiltà liberale. Chi è statalista la pensa come De Magistris, chi è liberale, chi ha fatto della libertà la trincea che ha fatto evolvere nei secoli il nostro benessere, la nostra democrazia, la pensa come me. Come te. Voglio farti una provocazione. Sicuramente Hervé Falciani ha commesso un reato nel trafugare, ha violato la... E fa in questo momento da anni la vita del ricco evasore a spese dei governi in Costa Azzurra. Questo, è chiaro? Quindi, è vero. Fa anche interviste un po' a pagamento, fa interviste, non si sa bene dove viva, non si sa, è protetto. Prima è stato ricercato da vari servizi segreti, poi invece è stato protetto da altri servizi segreti, quelli ai quali probabilmente ha venduto le cose. Ha fatto sicuramente qualcosa di criminale. Un reato. Però nel fare un reato, questa è la posizione di chi lo identifica come una sorta di Robin Hood moderno. Ma qual è Robin Hood? Ma qual è Robin Hood? Chi? Stato ladro e Falciani ladro. Vabbè, chi dice ha rubato sicuramente qualcosa per far emergere ipotetici altri reati. Questo... Signore, quello ha rubato e per anni non riusciva a vendere le sue liste, perché questa è la storia di Falciani, è andato a Beirut 3 volte, i servizi segreti francesi lo hanno identificato per questo, l'hanno pizzicato per sì, questo. Sì, ma questa infatti è la sua storia personale. Perché si voleva mettere a posto nella vita, punto numero uno. Questa era il... Quale Robin Hood? Di cosa stiamo parlando? Di quale cosa stiamo parlando? Chiediamolo all'ex magistrato De Magistris. C'è da parte, si rimetta un attimo nei panni del magistrato, c'è di fronte a un Falciani, cioè uno che commette un reato per poi far emergere ipotetici altri reati, una posizione, io la definisco da Robin Hood, qualcuno la definisce da Robin Hood, la legge come lo definirebbe? No, qua ci sono due aspetti. La legge deve da un lato perseguire chi ha trafugato illecitamente dei dati riservati e poi in secondo luogo verificare se una volta acquisiti quegli elementi si può procedere, come questo è il caso, nei confronti di reati commessi da altre persone, che è il caso di chi si presume, in questo caso delle indagini della magistratura e della Guardia di Finanza, abbia illecitamente, quantomeno sotto il profilo fiscale, portato soldi all'estero. E qui non c'entra niente, mi permetto di dire a Giannino, che anche io rispetto per le sue opinioni, la concorrenza fiscale, perché qua ci troviamo semplicemente di fronte a persone che hanno preso il bottino e l'hanno portato all'estero. Probabilmente qualcuno l'ha fatto anche senza evadere le tasse, ma è presumibile, questa è la previsione che posso fare, e poi vedremo fra qualche mese, che la maggioranza di quelli l'hanno portato portato, ripeto, quantomeno per evadere il fisco. Poi è probabile tra quei nominativi esca anche qualcuno che magari è collegato a quello che stava in Finmeccanica, a quell'altro che stava in quell'altra società, e potremmo trovare fondi neri di mazzette o riciclaggio di denaro sporco mafioso. E questo è interesse dello Stato e della magistratura perseguirli, indipendentemente da condotte di reato censurabili, fatte per interessi personali e quant'altro di questo Falciani, la cui storia francamente a me interessa molto meno rispetto a Giannino, mi interessa più il resto. Quello che ha portato alla luce. Tra l'altro oggi, e prima, da qui poi voglio ripartire dopo il traffico, il colonnello della Guardia di Finanza Rosario Massino, che era a bordo dell'aereo che è andato a prelevare dalla Francia il dischetto con la lista, dice: ora che succede a chi è in quella lista? Onere della prova, sono loro a dovere dimostrare. Pensa che bella civiltà, civiltà liberale, stato ladro, inquisizione. Sta interrompendo la corte, sto leggendo quello che c'è scritto sul giornale, Oscar Giannino. Il colonnello dice: sono le persone in quella lista che dovranno dimostrare la regolarità dei loro conti, se non la dimostreranno andremo a chiedergli perché. Il grande inquisitore di Spagna, si era così, capisci? Facciamo un balzo indietro verso le tenebre. Non è il grande inquisitore di Spagna, il colonnello della Guardia di Finanza Rosario Massino. E figurati, si equivalgono i miei occhi. Traffico. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora, per ora il 78%, anzi 79%, caro Oscar Giannino, dei nostri ascoltatori dice: chi è in quella lista? Io lo considero un colpevole, io ascoltatore. Ma la notizia è che il 21% invece dice no alla gogna mediatica, questa è la notizia. Ma infatti, vedi che si scoprono delle cose belle. Dice no alla facile trappola che avete ordito insieme allo Stato criminogeno. Avete chi? Avete, vai, è chiaro, avete... Io. Certo. Ma insomma, Giovanni da Biella, buongiorno. Buongiorno Giovanni. 800240024 se volete intervenire. C'è Giovanni? Sì, ci sono. Bene, dica. Io spesso condivido gli atteggiamenti di Oscar Giannino, anche se un po' sei sparati, nel caso specifico assolutamente no. Il fatto di essere in una lista non significa di essere necessariamente colpevole o criminale, ma se si dovesse accertare che sono i valori fiscali, sono sicuramente colpevoli e criminali. Beh, e devono essere perseguiti. Questa è, diciamo, una frase, diciamo, che dal punto di vista della logica non fa una grinza, ma il problema è che come si è arrivati a quella lista, caro Giovanni, che con un Falciani che ha trafugato questa lista violando il segreto bancario, la fedeltà nei confronti dell'azienda. Questo è il punto, caro Giovanni, su cui anche si sta discutendo. Lei su questo che ne pensa? Ha fatto bene questo Falciani? È un Robin Hood o è un disgraziato? Nell'uno e nell'altro, è uno speculatore che ha approfittato di una posizione di vantaggio per prendere dei vantaggi personali. Una posizione di vantaggio, dal dipendente di una banca, che posizione di vantaggio è? Cioè, nel senso, va bene, comunque. Il vendere la lista, io sono un ex bancario, ho un atteggiamento molto preciso rispetto a certi fatti. Lui aveva dei doveri che sicuramente ha tradito, sicuramente. Ma a prescindere da questo, il fatto che la lista venga fuori da qualcuno che ha commesso un reato non significa che non abbia una validità a livello sia sociale sia giuridico. Va bene, grazie Giovanni. Aspetta Oscar, che accumuliamo. Roberto da Treviso, buongiorno. Poi ti scateno. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Dica. Io sono d'accordo con Oscar Giannino, ma oggi no. Oggi no. In quanto colpevoli, mi ha preceduto il collega che ho sentito, è un bancario, anch'io ero un dirigente bancario, e quindi il discorso del trafugamento è un discorso privato fra banca e ex dipendente. Che dopo la lista sia venuta fuori, di questa lista logicamente sono colpevoli quelli che non hanno fatto né il modello W né lo scudo fiscale, legge truffa. Sì. Do in modo per tutti i cittadini, perché io ero anche, ho nella mia attività di dirigente bancario, ho portato il vecchio scudo tanti miliardi in Italia, che purtroppo in realtà hanno continuato i soggetti a riportare i soldi. Sì, però Roberto, mi scusi, il punto che il punto che non si è capito è questo, sul quale Oscar vuole battere, che questo Falciani ha trafugato i conti correnti, poi è stato in trattative con vari servizi segreti. Il punto che dice Oscar assolutamente del patto criminogeno è che gli stati che sono alla ricerca sempre di entrate fiscali, perché insomma lo Stato è com'è? Dammi l'aggettivo giusto. Ladro. Ladro. Cosa hanno fatto? Hanno pagato fior fior di denari questa lista, questo falsariga, ha fatto una trattativa con vari servizi segreti, chi mi offre di più. Poi, ovviamente, quando questa lista è stata acquisita dagli stati, è finita alle procure, insomma, lì... Ma c'è un piccolo particolare, il nostro ascoltatore, per esempio, quando dice un fatto privato, il reato compiuto da Falcianita, lui la banca, sbaglia, perché il piccolo problema è che niente di tutto questo potrà portare ad accertamenti e a rogatoria nei confronti dell'autorità svizzera, perché le autorità svizzere su queste sono prescrittive. Non si dà rogatoria e collaborazione per l'applicazione della convenzione tra Italia e Svizzera contro la doppia imposizione fiscale, non si dà assistenza da parte dell'autorità svizzera nei confronti di tutti gli stati che chiedano informazioni frutto di illeciti secondo il diritto svizzero. Secondo il diritto svizzero, qui è una violazione patente della riservatezza dei dati, quindi non è un fatto privato tra Fasciani e la sua banca, è ciò che impedirà alla finanza e alle procure italiane di avere l'assistenza degli svizzeri. Quindi questo, per quello, è per me un'operazione di puro consenso a Befera e ai suoi rapinatori. Però l'assistenza degli svizzeri, ma qui la Guardia di Finanza ci ha fatto capire col colonnello Massino che vanno a chiedere a, che ne so, Stefania Sandrelli, versione, perché questa inversione dell'onere della prova e l'inquisizione, l'inversione che tutti i cittadini come questi che dicono qui battano le mani, questo è il sistema attraverso cui lo Stato vi ruba ancora più soldi dividendovi. Sì, però ci cascate e meritate di essere rapinati, perché chi, siete schiavi, sudditi. Chi è in questa lista ora dovrà dire lui. Questo è inaccettabile, dimostrare che inaccettabile inversione di un presupposto dell'ordinamento liberale. È la legge. No, è la lo giustizia. Stato ladro. Bisogna chiamarlo per nome a costo che di essere perseguito. Onorevole De Magistris, ci fanno sapere, sempre il colonnello della Guardia di Finanza Massino, intervistato dal giornale, che ci sono molti conti anche all'interno di questa lista dormienti, cioè con 0 euro sopra. E la domanda che si fa il colonnello è questa: vorrei sapere, e la domanda che ci facciamo tutti noi, che ci fa uno con un conto dormiente zero in Svizzera? Lei, secondo lei, perché ci sono molti conti con 0 euro? Ma innanzitutto voglio fare una intervenire su quanto è stato detto adesso, che in questo momento ci stanno elementi per indagare, perché ci stanno i conti, ci stanno le somme e sono identificati i beneficiari, quindi l'autorità giudiziaria italiana, in questo caso la Guardia di Finanza, ha tutti gli elementi, a prescindere anche dalla richiesta di assistenza giudiziaria con la Svizzera, per indagare. Qualora si scopra che non sono solo illeciti fiscali, ad esempio, ma c'è altro, viene meno anche quel principio che diceva prima Giannino. In secondo luogo, il conto dormiente può servire, un conto che in questo momento o nel momento in cui è stato preso il dato da parte Falciani si trovava con 0 euro, è un conto però attivo, cioè nel senso che anche per un breve periodo possono transitare delle somme che debbono servire ad esempio per operazioni speculative o ad esempio per pagamenti di mazzette o depositi di fondi neri. Quindi comunque sono dei conti nella disponibilità di persone che le hanno acceso, oppure possono essere conti che sono serviti in un tempo e che adesso quella persona non ha più soldi. Tutto da accertare. Effettivamente però l'inversione dell'onere della prova, devo dire che anche a me è una cosa un po' no, ma quello attiene solamente non al fatto penale, attenzione, quello attiene solamente al fatto fiscale. Qua ci troviamo di fronte. Ho capito, però capisce che, cioè, voglio dire, adesso Claudio Panatta dovrà dimostrare lui che quei soldi, dovrà portare lui documenti a dire: guardate, che ci vuole? Scusi, guardi, se uno ha dei soldi lecitamente. No, ma il principio sì che si discute. Il principio, perché si presume che se tu porti i soldi svizzero alle Cayman e porti diverse somme di denaro, l'hai fatto per frodare il fisco. Se non è così, vai là, produci, guarda, ho vinto la lotteria d'Italia, ho vinto a Toto Calcio e si risolve là. Il problema nel penale invece non c'è l'inversione dell'onere della prova, certo, quindi non c'è lo stato ladro o lo stato inquisitore, come dice Giannini. A livello fiscale, dice Giannini. Marco da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica, Marco. Volevo dire che sono assolutamente d'accordo con Oscar Giannino. Che qua esulta, purtroppo non siamo in TV, ma esulta come un gol da stadio. L'80% dei sondaggi probabilmente sono quella parte di italiani statalisti. Come diceva Pane Bianco lunedì sul Corriere della Sera, stato filo, che vogliono continuare a essere probabilmente assistiti e non liberali. Io mi chiedo poi un'altra cosa, ma fino a quale, visto che, come diceva sempre Pane Bianco, ovviamente attraverso le tasse lo Stato aumenta la sua invadenza, il suo, diciamo, potere, ma fino a che punto si può tassare? Cioè, al limite, allora possiamo dire che uno Stato, un governo, può chiedere il 70, l'80, il 90%. Ragionando per assurdo, guardi, siamo già percentuali più basse, ma non tanto più basse che Oscar Giafreme. No, no, ma siamo infatti, già al 60 se non oltre. Capisco il suo ragionamento per assurdo, la ringrazio Marco. Allora io ho 30 secondi per chiudere. Forza, dillo Oscar. Ladro, stato ladro. No, io volevo dirti Falciani. Finanza è un Robin Hood moderno. Befera in galera, No, questo no. È un Robin Hood moderno. Tu hai paura di dire, ma no, per difendere la libertà bisogna dire quando l'agenzia Oscar delle entrate mi vede come uno che difendo degli interessi, allora che non rima, conosco Befera in galera. Ma io non conosco gli interessi di cui sarei difensore. Paura, si chiama paura, paura. Invece per battersi per la libertà bisogna non avere paura. Va bene, ho paura, non lo so, ho paura. Vabbè, allora Falciani in galera. Certo. In galera. Invece sta a Monte Carlo con la lista. Pagato da noi. Pagato dai servizi. Pagato dalla finanza italiana, capisci? Va bene. Ringrazio l'onorevole Luigi De Magistris. Oscar Giannino, ovviamente, rimane qui. Di che parli tra poco? Di giovani, credo. Parlo di giovani. C'è il ministro Meloni. Sempre che non mi arrestino le giacche grigie. Nel frattempo, perché c'è prima il GR, giustamente. Allora saluto Antonella Migliaccio. Grazie. In redazione con Peter Bescapè in regia. La linea la do così. La passo. Do il microfono. Eccolo qua a Oscar Giannino. Tra poco, noi ci sentiamo domattina.